ore 11:07 torniamo in diretta sempre con Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni e sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. E intanto stanno arrivando i messaggi al 333-180-9494. Carlotta ci scrive: grande Rachele, bellissimo pezzo Your Woman, un bacio da Carlotta. Grazie Carlotta che ci ascolti da casa, un bacio anche a te e in bocca al lupo per le prossime puntate di Fujiko Factory. E visto che siamo in momenti di saluti e di ringraziamenti, io saluto anche la mia amica Rachele, che ci conosciamo da 15 anni, da 16 anni, non lo so, abbiamo perso il conto e ancora non l'ho mai salutata in radio, sono veramente una pessima amica. Ciao Rachele, un bacione grande dagli studi di Radio Città Fujiko. E ultimo ringraziamento finale va ad Edoardo, un altro mio amico che mi ha consigliato questo fantastico pezzo che abbiamo appena ascoltato. Lei era Sampa Tembo, conosciuta diciamo professionalmente con il nome d'arte di Sampa The Great, e la sua canzone era Energy. Sampa è una ragazza nata nel 1993 in Zambia e poi cresciuta in Botswana, ed è appunto una cantante, una scrittrice e una rapper, e io ringrazio ancora una volta Edoardo per questo ottimo consiglio musicale. Ma veniamo a noi e torniamo ovviamente per parlare di fumetti, perché siamo giunti al momento dell'intervista, al momento principale di queste due ore di diretta di Fuji Comics. E torniamo appunto per parlare, come vi avevo già anticipato nel menu della puntata, di Michelangelo Setola e della sua ultima uscita con gli Sprecati, pubblicato ovviamente come sempre da Canicola Edizioni. Michelangelo Setola nasce a Bologna nel 1980 tra i disegnatori più influenti del fumetto contemporaneo europeo. Dopo le pubblicazioni su riviste come Lo Straniero, Canicola, Black, Internazionale, Glomp, Orang, insomma potrei continuare all'infinito, realizza con Amanda Vamaki l'albo di disegni Souvlaki Circus, poi pubblicato negli Stati Uniti per Buonaventura Press. Nel 2008 pubblica il fumetto Barmiki in Italia, Svizzera, Germania e Finlandia, mentre nel 2012 con Edo Kiregato per Canicola pubblica Dormire nel fango, tradotto anche in Francia e in Danimarca. Ha esposto tantissime volte con mostre personali ad Artissima, Salone Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino, al Festival di Fumetto di Lucerna, al Billboard Bull, al Festival Internazionale del Fumetto di Bologna, alla Biennale di Rimini, a gallerie un po' sparse in giro per il mondo, da Chicago, Francoforte, Amburgo fino a Modena, qua magari un po' più vicino a noi. E nel 2019 realizza con Stefano Ricci il Leporello di 8 metri che si intitola I Molti Animali, Piante, Persone e Migranti. E con Michelangelo Setola abbiamo appunto parlato degli Sprecati, 24 pagine in bianco e nero pubblicate da Canicola, che appunto è già uscito nelle librerie e nelle fumetterie di tutta Italia. Allora, innanzitutto bisogna dire il grande formato con cui è appunto stampato e composto questo fumetto, perché fa parte della collana Sudaca, di cui ad esempio fanno anche parte Tramezzino di Paolo Bacilieri e Susi Corre di Silvia Rocchi. Entrambi sono stati ospiti di Fuji Comics, quindi se vi siete persi qualcosa vi consiglio di andare a recuperare i podcast e cercarli nella pagina Facebook di Fuji Comics. E il, si può dire tra virgolette, protagonista, anche se forse è un po' riduttivo definirlo protagonista del fumetto, comunque è Don Goffo, un viandante silenzioso di cui in realtà non sappiamo tanto, non sappiamo molto della sua storia personale. Don Goffo è come un moderno Caronte che ci accompagna un po' in questo viaggio che si compie all'interno degli Sprecati, all'interno del fumetto di Michelangelo Setola. E parte questo viaggio diciamo da questo sud indefinito di un mondo che è non bene circoscritto e si arriva fino ad una città industriale, quasi una prigione, dove chi entra non ha più la possibilità di uscirne. Questa prigione è formata da un'immensa fabbrica, questa città industria, in cui gli operai fanno tutto quanto, lavorano, mangiano, dormono e sono sempre sotto lo sguardo di un padrone invisibile che li forza Giorgia per adattarli al meglio all'alienazione del lavoro industriale. Quindi queste sono un po' le premesse degli Sprecati, il nuovo fumetto di Michelangelo Setola. Noi ieri abbiamo parlato proprio con Michelangelo e andiamo a sentire direttamente le sue parole di presentazione degli Sprecati. Buongiorno Michelangelo e benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, siamo qua per parlare del tuo nuovo fumetto Gli Sprecati. Come prima domanda non posso che non citare il formato ad albettone, come lo chiama Bacilieri, che fa appunto parte della collana Sudaka di Canicola. Consiste in questo formato molto grande in cui viene appunto stampato il fumetto. Come mai la scelta appunto di questo formato? Ma allora, la scelta è una scelta innanzitutto editoriale, quindi della casa editrice Canicola, di cui tra l'altro faccio parte. È nata per l'esigenza di dare al disegnatore o chi appunto aveva un lavoro forte col disegno di esprimerlo al meglio, diciamo, e poi oltre alla possibilità di poter fruire meglio del disegno, anche la possibilità di sperimentare tutta una serie di possibilità che ti dà il formato, proprio anche nella struttura della storia e diciamo della costruzione delle vignette, con possibilità pressoché infinite in realtà. Poi non sempre è stato utilizzato in questo senso. Io avrei voluto farlo anch'io un po' di più di quanto non sia riuscito, poi però per esigenze di tempi eccetera l'ho perlustrata, diciamo, non come avrei voluto, però sì, queste sono le due caratteristiche principali per cui è scelto di utilizzare questo formato, che se è molto scomodo e spesso problematico per anche le librerie, per la distribuzione, però anche tante questo abbiamo deciso di provare a farlo, perché è una cosa un po' diversa aprire anche a un autore che magari non ha così spesso la possibilità di confrontarsi con un formato del genere. Sì, devo dire che almeno a mio parere in realtà è molto affascinante questo formato, nonostante, come dici tu, sia anche un po' scomodo. Magari vai in libreria e compri il libro, esci con questo albettone gigante, però come diceva anche sia Silvia Rocchi che Bacilieri, che appunto entrambi hanno fatto Susi Corre e Tramezzino utilizzando sempre questo formato grande, hanno avuto, entrambi mi dicevano, la possibilità appunto di esprimersi in grandi, grandi forme, ecco. Un'altra cosa che invece mi ha colpito molto è appunto il titolo, rimanendo un po' sempre sulla copertina, appunto Gli Sprecati, che è una parola molto forte con cui descrivere una situazione o una persona. Che cosa volevi comunicare con questo titolo? Il titolo iniziale non era Gli Sprecati, ma era Don Goffo, che poi è il, diciamo, tra virgolette il protagonista, perché non c'è un vero e proprio protagonista comunque. Poi andando avanti in redazione, così, sembrava che potesse essere fuorviante rispetto a quello che veniva raccontato, perché poteva dare l'impressione di essere fumetto, un racconto comico, demenziale. Abbiamo avuto un po' questa paura, quindi dopo un lungo confronto anche appunto redazionale sono saltati fuori diversi titoli. Questo era quello che in qualche modo ci piaceva di più, sia come suonava e anche perché viene raccontata comunque la storia di persone che possono essere ritenute sprecate, nel senso che per come è stato portato, diciamo, all'estremo il lavoro nel racconto, la condizione, il lavoro all'interno di un complesso industriale di fantasia, però che non esiste, anche se non sappiamo bene in realtà se può essere anche che ci siano luoghi di lavoro che si avvicinano a quelle condizioni. Comunque l'idea era quella di racchiudere nel titolo un po' questa sensazione di persone che sono, tra virgolette, sprecate. July was such a dream, almost. almost like a fantasy. I saw you in my dreams, but now you're next to me. It's feeling kind of weak, feeling like you're faking it. So what's that in between? There's something in between, but I won't be the one to say it should be you, not me. I've been thinking recently, what are your intentions, boy? I need good intentions. Raccontiamo invece un po' la storia che si sviluppa all'interno di queste pagine, che come hai appena detto tu, si parla di città industriale, si parla di alienazione, di operai che lavorano. Che cosa racconta appunto questa storia? La storia, diciamo che è un viaggio all'interno di questo stato, città industriale immaginaria, fatta da un gruppo di operai edili che entra in questo mondo per fare delle ristrutturazioni, e sulla strada incontra questo specie di viandante che poi, diciamo, dovrebbe essere l'occhio di chi legge il racconto, è un po' il testimone di quello che succede. All'inizio c'è un'introduzione un po' più riflessiva, in cui si arriva lentamente all'interno di questo complesso, e poi all'interno siamo, diciamo, testimoni di scene un po' disturbanti di quello che avviene all'interno, fino a che poi non si scatena una sorta di rivolta, che però poi nel fumetto non si vede, ma sarà sedata molto velocemente e ci sarà una fuga, ma un po' una non storia, diciamo, nel senso che è abbastanza lineare e bizzarra, più che altro è nata dalla volontà di disegnare determinati spazi, determinate strutture, più che dalla volontà di raccontare qualcosa di preciso. Era più voler ricreare un'atmosfera tramite delle cose che avevo voglia di disegnare. Yo, this is the Fugees, refugees, about to take you on a journey into the dimensions of the Booger Basement, the basement's word. Hey yo, 1, 2, 3, the crew is called refugees, and if you come for test the rap styly, stop the violence and just bring it on. Why yo, hey yo, I feel kind of melancholy, people think they really know me. My rapper by me while I drive a daddy's Audi. I pay the toll fighter for my own soul, cause the bourgeois type of mental sucks like a black hole. But I remain a rebel, face to face, distort the EQ. Them devils wishing they could send me back to Mogadishu, cause I've been wild since I was a juvenile. Afrocentric profile, back when righteous rap was still a style. Now kids are wild, so I asked the bad black Boogie Bandit, what's the damage? Give me the estimate then, pray tell me when the revolution will begin. I turn on my TV, I check out Farrakhan on CNN. See, I'm like the phantom that's flying like the bird, doing things you never heard. Plus I come from the suburbs, worth it gone. I heard you had it kinda hard, and you got your skin scorn when they were shooting on the boulevard. You got the vocab, I got the vocab, on the ground got the vocab. Yeah, we got the vocab, oh, got the vocab. Yeah, we got the vocab. And your prize, grab the mic and show you got the gift to get. From here to Mexico, you see my 456 to be my CeeLo, and when I rest my head is on a pillow. BDBD, BDB, BDB, bo. You see the skills I manifest is very thorough, and if you don't believe me, ask Ferris Jaco. I feel with Jaco, I feel with Jaco. I don't mean who, I don't mean who. Watch out now, when I choose to speak, I'm forming the cipher, fly beast at the 5%. Knowledge is born to all beginners. Okay. Cast the first stone and fulfill you in a sinner. Say our Father who art in heaven. Forgive the foolish rapping for you not know how Fuji was stepping. Correcting, stopping, captain. Enough respect to the DJ that be selected. That type of record. I got the vocab. You know they got the vocab. We got the vocab. Hey, yo, clap, grab the mic and check it out. Back in 83, no one wanted to be not me. I turn on my TV, it's a dreadlock for free. Kill the gimmick, it's nonsense, it's no sense. So now you're a rapper, disaster. Nobody ever told me that. Roxanne, you don't got to act for money no more. And back in the days, I used to listen to Coogee rap. Way back when, before guns became gats, and Run DMC used to ask Mary what she bugging. I love PE, they kept me conscious of what I was saying. African big bada, poor righteous teacher, God within myself, so it may be a 5%. Saladi daddy, oh, we like to party, but my jam was BDB with my philosophy. Say Grandmaster Flash, MC Mally Mel, then LL Cool J came with Rock the Bells. See, I'm known for the crew, like a Jew is a Jew, like Apollo got the boo, like the Mecca got the brew. Like the fool got the Manchu, Shaka got the Zulu, Hawaii got the Honolulu. I got the rap blues, so skibidi bop bop, you don't stop. You do the rock rock from hip hop to bebop, from bebop you to bebop. I got the vocab. Boogie Bell got the vocab. You know they got the vocab. We got the vocab. And your peeps, grab the mic and show them you got the gift to get. You got the vocab. Yeah, we got the vocab. Queens got the vocab. You know y'all got the vocab. Uptown got the vocab. Yeah, they got the vocab. And your bros, grab the mic and show them you got the gift to get. Dixie got the vocab. Words, y'all got the vocab. Virginia got the vocab. Hey, I know y'all got the vocab. Oakley got the vocab. Word, they got the vocab. And your sisters, grab the mic and show them you got the gift to get. Il progetto in realtà non si ferma, non si conclude con il fumetto, ma si intreccia anche con la musica. Sì, allora praticamente io ho iniziato a lavorare alla storia diversi anni fa, poi mi sono interrotto, ho fatto circa 3-4 pagine, poi sono stato fermo a lungo. Quando ho deciso di ricominciare, mi è venuto in mente di chiedere a Jonathan Clancy, che è un musicista di Bologna, se voleva provare a portare avanti un progetto in contemporanea, nel senso che contestualmente io inviavo i progressi del racconto, quindi ogni volta che più o meno realizzavo una tavola gliela spedivo, e lui sulla base di quello che vedeva scriveva delle tracce, le registrava e me le mandava, e così in teoria il lavoro sarebbe influenzato reciprocamente, alimentando magari delle cose nuove che non ci sarebbero state senza la influenza dell'altro mezzo. Così siamo andati avanti. Lui deve ancora finire il disco, che però comunque prenderà spunto adesso che la storia è finita dai testi e da comunque dalla storia, e per promuovere il libro, più che fare incontri nelle librerie e promuovere poi successivamente anche il disco quando uscirà, faremo dei live in cui lui suona da solo con tutto il suo armamentario, strumenti, droni, campionatori eccetera, e io contestualmente disegno sempre live. È un modo un po' diverso di promuovere un libro, ma che trovo più mio. Preferisco disegnare in determinate situazioni piuttosto che gli incontri, che sono qualcosa che quali non mi sento sempre a mio agio, E avete già qualche data prefissata, magari, che possiamo dire qua? Abbiamo avuto la festa di Canicola durante Bilbul Bull, e un'altra data. Adesso ci sono delle date in programma, ma non ho date precise, sono tutte ancora in divenire, perché il disco tra l'altro deve ancora appunto uscire, quindi abbiamo dei contatti, sicuramente ci saranno diverse date, ma non ho date precise in questo momento, purtroppo, da dare. Allora aspetteremo l'uscita ufficiale delle date per questo progetto, che appunto intreccia un po' musica e fumetto. Io, Michelangelo, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te e buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. We'll be right back. travesty. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Qua torniamo in diretta, ore 11:41, sempre su Radio Città Fujiko con Fuji Comics e con la vostra Rachele Copparoni. siamo tornati in diretta dopo la pubblicità e dopo aver ascoltato Meg con Imperfezioni. Meg, pseudonimo di Maria Di Donna, cantautrice italiana che molti di voi, come me per prima, ricorderanno per essere una delle cantanti che facevano parte appunto del gruppo insieme ai 99 Posse. Nel 2000 esce l'ultimo disco di inediti della band con anche Meg appunto all'interno della formazione. La band si scioglierà ufficialmente poi nel 2015, ma si riunirà nel 2009 purtroppo senza Meg. In un'intervista, tra l'altro, la cantante ha dichiarato che non considera chiusa definitivamente l'esperienza insieme appunto 99 Posse e che le dichiarazioni di Ozulu, pur essendo certamente rispettabili, erano probabilmente più, come dire, un sentimento personale piuttosto che del gruppo in toto. Nel marzo 2015 pubblica il singolo Imperfezione, che è quello che appunto abbiamo appena ascoltato, che segna il suo ritorno sulle scene e che anticipa l'album chiamato anch'esso Imperfezione, pubblicato sempre nel 2015, che è uscito il 21 aprile. E siamo appunto tornati in diretta per questa terza mezz'ora di Fuji Comics e quindi vi voglio ricordare ancora una volta che potete mandare un messaggino tramite SMS, tramite WhatsApp oppure su Telegram al 333 180 9494. Potete mandare anche degli audio, dei vocali, perché ormai il nostro Andrea Gozza, collegato qui con mille cavi che non so neanche che cosa siano, e insomma abbiamo un'uscita audio per appunto ascoltare i vostri vocali, quindi se volete scriverci o mandarci un audio qua al 333 180 9494, noi lo manderemo in diretta. E ricordate anche di seguire Radio Città Fujiko sia sul sito www.radiocittafujiko.it che sui vari social, Facebook, Instagram, e anche immancabilmente Fuji Comics sempre sia su Facebook che su Instagram, per vedere un po' il dietro le quinte e la preparazione di queste 2 ore di diretta insieme a voi. Continuiamo ancora con un po' di musica e non so se l'avete notato, ma ci siamo spostati sull'italiano, sulla musica italiana, perché era un po' che non la mettevo qua in diretta in Fuji Comics, e quindi mi sono detta è ora di sentire anche un po' di voci italiane, non solo fare il giro del mondo. Quindi ci ascoltiamo Laura con Basta. Laura scritto, mi raccomando, L'apostrofo Aura, che è lo pseudonimo di Laura Abela, che è appunto una cantatrice italiana. Ha debuttato nel mondo della discografia nel 2005 con l'album Okumuki e ha partecipato, tra l'altro, visto che siamo in zona Sanremo, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2008 nella categoria Big con il brano Basta, che è quello che ci ascolteremo oggi, ed era incluso nel suo terzo album Laura, che ha raggiunto la 17ª posizione della classifica dei singoli italiani appunto al Festival di Sanremo. Tra l'altro sapete, no, che a Sanremo c'è la serata in cui devi portare un ospite, duettare con una canzone. Laura ha presentato Basta in una versione della canzone insieme al gruppo musicale Rezophonic, e quindi ora ci andiamo a sentire Laura con Basta. Che succede, amica mia? C'è chi ora prova a portarvi sogni giovani che il tempo cullerà, pieni di libertà. Gente che resta e che va via. La democrazia dai peccati. E dopo aver ascoltato questo inno contro la guerra di Laura e la sua Basta, torniamo a parlare un po' di fumetti, ovviamente, come sempre. E torniamo per parlare di, insomma, di un po' di belle notizie, di nuove uscite, della Panini Comics che diventa il nuovo editore italiano di DC, insomma, un po' delle novità in questo mondo. E partiamo da un premio vinto da Barbara Baldi, che, di cui abbiamo già parlato, perché è stata colei che quest'anno ha interpretato, diciamo, il tema e la locandina del Lucca Comics. Insomma, Barbara Baldi ha vinto il Grand Prix Artemisia 2020, assegnato dall'associazione francese Artemisia, così nominata in omaggio alla pittrice italiana Artemisia Gentileschi. Si tratta di un riconoscimento annuale che premia esclusivamente le autrici di fumetto, e appunto Barbara Baldi è stata premiata quest'anno per il suo fumetto Ada, che in Italia è stato pubblicato da Oblomov Edizioni. Ma per incuriosirvi ancora un po' di che cosa parla Ada, innanzitutto siamo all'inizio del Novecento, in un'ambientazione mitteleuropea. La storia parla di un padre abbastanza autoritario che fa il taglialegna e vive insieme a sua figlia ai margini di un bosco. La figlia è appunto Ada ed è la vittima maltrattata e assolutamente incompresa dal padre, sulla quale appunto il padre scaglia contro tutta la sua aggressività, tutta la sua frustrazione di vita. La ragazza però diciamo si sfoga grazie al suo talento e alla sua curiosità per la pittura, nonostante il padre ovviamente disprezzi totalmente l'arte e il lavoro intellettuale che può stare dietro appunto alla pittura. Ada capisce che lo scontro insieme al padre insomma non le conviene e continua a coltivare la sua passione in silenzio all'insaputa del padre, con l'aiuto di uno studente conosciuto a scuola anni prima. I due non si vedono direttamente, ma si scambiano libri, disegni, colori, tutto ciò che appunto ha a che fare con la pittura, e la pittura diventa per Ada una dimensione di libertà parallela, un vero e proprio percorso di emancipazione personale che porta appunto alla consapevolezza di sé. E questa è un po' la trama di Ada, che ha fatto vincere il Grand Prix Artemisia 2020 a Barbara Baldi. E continuiamo con un'altra bellissima notizia di cui sono veramente entusiasta. Sto parlando dell'ultima uscita di Alessandro Baronciani, che farà appunto uscire il suo nuovo fumetto il 23 gennaio e si intitola Quando tutto diventò blu, ovviamente pubblicato dalla Bao Publishing. Io sono una grandissima fan di Alessandro Baronciani, ho tutti i suoi fumetti, ho anche un poster gigante attaccato in camera, volevo comprarmi una sua serigrafia, insomma lo adoro. E tra l'altro, per chi magari è di Milano e ci ascolta, oppure intorno al 20 gennaio si troverà a Milano, vi segnalo che appunto il 20 gennaio, che tra l'altro è il Blue Monday, Alessandro Baronciani sarà alla Feltrinelli Duomo di Milano insieme a Colapesce per presentare Quando tutto diventò blu, edito da Pau Publishing. E prima di continuare con altre novità e di parlare finalmente della questione della Panini Comics e della DC, continuiamo con un po' di musica sempre italiana e sempre con una voce femminile. Lei è Levante e questa è Alfonso. Capelli da sola, ma sai, mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria e sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io e Manuel tanti auguri ma non ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013. Non ti conosco. Questa era Levante con Alfonso, ma torniamo in diretta finalmente per parlare di questa scoop editoriale che riguarda la Panini Comics, perché appunto la Panini Comics ha annunciato che sarà il nuovo editore italiano della DC Comics, la casa editrice, insomma, per intenderci di Superman e di Batman, ma di mille altre cose. A ufficiare l'acquisizione dei diritti è stato proprio lo stesso editore modenese in un comunicato ufficiale diffuso sulla propria pagina Facebook. In precedenza i fumetti DC erano pubblicati in Italia da RV Edizioni, che ne aveva acquisito i diritti nel 2012, rilevando dall'editore spagnolo Planeta Degostini, appunto Pianeta Degostini, ma appunto la versione spagnola. Panini Comics, che già da anni traduce i fumetti DC per la Germania e anche per il Brasile, e che dal 1994 è anche l'editore italiano dei fumetti della Marvel, inizierà le pubblicazioni a partire dal 2 aprile 2020, in concomitanza con le partecipazioni alla 12ª edizione dell'evento modenese Play e contemporaneamente anche al Romix, la grande fiera di fumetti e di illustrazioni che si tiene appunto a Roma. I primi titoli DC Comics proposti da Panini saranno 5 albi Alfa da collezione e lo speciale L'anno del criminale, albo di 32 pagine che contiene 3 storie brevi. I piani editoriali saranno invece comunicati in seguito, e quindi aspettiamo il 2 aprile 2020 per vedere come andrà, insomma, questa mandata editoriale della Panini Comics per la DC. E concludiamo questa chiacchierata riguardo le novità che hanno a che fare con i fumetti e con le graphic novel, e parliamo di fumetti e di romanzi che molto spesso ultimamente si intrecciano tra di loro. La novità in ambito appunto di fumetti e romanzi è il fatto che Dune, il romanzo di fantascienza dello scrittore Frank Herbert, sarà adattato a fumetti con un progetto di 3 volumi pubblicato da Abrams Book. La storia sarà affidata agli scrittori Brian Herbert e Kevin J. Anderson, già autori dei racconti derivati dal romanzo originale. I disegni invece saranno affidati a Raoul Allen e Patricia Martin, mentre le copertine saranno illustrate da Bill Sienkiewicz, l'avrò detto malissimo, perdonami Bill. Comunque, il primo volume di Dune sarà pubblicato negli Stati Uniti nell'ottobre del 2020 in occasione del nuovo film diretto da Denis Villeneuve, in uscita a dicembre. E queste erano tutte le novità scovate sull'internet riguardo i fumetti, e insomma noi ci facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente in diretta per l'ultima parte di Fuji Comics, quindi vi lascio alla pubblicità.

testa di questa canzone, scritto proprio dallo stesso Dario Brunori e diretto da Giacomo Triglia. Il singolo ha anticipato l'uscita del quinto album in studio del cantautore, che è intitolato Chip, annunciato proprio dallo stesso Brunori il 4 dicembre 2019 tramite un post sul suo profilo Instagram, e in uscita, o meglio è già uscito in realtà, il 10 gennaio 2020 per l'etichetta Island Records. E tra l'altro le ragazze di Fujiko Factory sono anche andate a seguire un po' la presentazione che c'è stata qui a Bologna di Brunori Sas e appunto del suo Chip, il suo ultimo album in studio. Quindi anche lì, se vi siete persi qualcosa, male male, perché dovevate guardare l'Instagram di Radio Città Fujiko. E siamo arrivati al momento della rubrica degli eventi, la rubrica in cui vengono racchiusi da questo mercoledì fino al prossimo che si torna in diretta tutti gli eventi che riguardano la presentazione, motivi di incontro di fumetti e di graphic novel qui a Bologna. Quest'oggi la voce ci è stata gentilmente prestata da Teresa, che io ringrazio qua pubblicamente e ufficialmente, e quindi sentiamo un po' quali sono gli eventi della settimana a Bologna. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Io sono Teresa Fallavollita e questa è l'agenda degli appuntamenti della settimana nell'ambito dell'illustrazione del fumetto. Partiamo con giovedì 16 gennaio alla Feltrinelli di Piazza di Porta Ravignana. Alle ore 18, presentazione di Croce di Cuore di Wally. Modera l'incontro Fumetti Brutti. Stiamo a Cremona per il piccolo Festival del Fumetto 2020, il 18 e 19 gennaio. Presentazioni, interviste, incontri con gli autori, mostre personali, esposizioni di tavole originali degli autori presenti: Lorenzo Palloni, Paolo Castaldi, Laise Talami, Ettore Mazza, Lorenzo Ghetti, Vincenzo Filosa, Matilde Simoni, Luisa Torchio, Simone Prisco, Ida Cordaro, Francesca Follini, Batuomo e Robino, Luogo Comune, Officina Infernale, Michele Einard e Paolo Cattaneo. Al Circolo Arcipelago, via Speciano 4. Ingresso libero. Sabato 18 gennaio, presso la libreria Modo Info Shop in via Mascarella 24B, alle ore 18, presentazione di Ninna Nanna Teheran, un libro di Nassim Monariar. Emilio Verrà ne parla con l'autrice. Questo libro offre un ritratto dell'Iran contemporaneo, creato da una donna iraniana che, lavorando e vivendo anche all'estero, ha imparato a riconoscere le bellezze e le zone grigie del suo paese con grande obiettività. In Ninna Nanna Teheran, Nassim racconta una storia di quotidiana disperazione e rivalsa, scavando così a fondo nel cuore di questi bambini cresciuti troppo in fretta da portare alla luce un tesoro inestimabile, la loro sanguigna innocenza. Nassim vive a metà strada tra l'Italia e l'Iran, lavorando nel mondo della pittura e dell'animazione, con una particolare sensibilità ai temi sociali e ai problemi della sua terra d'origine. Ninna Nanna Teheran è il suo primo libro. Emilio Varrà ha fondato l'associazione Amelin, che si occupa di letteratura per l'infanzia, fumetto e illustrazione. Insegna archetipi dell'immaginario nel corso di fumetto e illustrazione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Sempre sabato 18 gennaio, presso la Libreria delle Donne in via San Felice 16A, alle ore 18, presentazione di Non sono questi i problemi. Il coming out nel bene e nel male è un momento fondamentale che le persone LGBTQ+ si trovano tutte ad affrontare. Certamente ognuna con i propri tempi e i propri modi. La Falla e Some People Prefer Cake, Bologna Lesbian Film Festival, trattano da sempre questo tema e vi invitano alla presentazione di Non sono questi i problemi, il graphic novel uscito da pochi mesi per Becco Giallo Editore, dell'autrice romana Ren De. Ospite della Libreria delle Donne di Bologna, modereranno la conversazione con l'autrice Elisa Manici e Valentina Pinza, della redazione della Falla. Domenica 19 gennaio, dalle ore 14 alle ore 19, workshop di illustrazione. La tecnica mista nei libri illustrati, presso Polpa Studio, in via De Chiari 11B. Per info e iscrizioni, polpastudio@gmail.com. Ultimo appuntamento, martedì 21 gennaio, alla libreria Coppa Ambasciatori, in via degli Orefici 19, alle ore 18. incontro con Telmo Pivanni e Federico Taddia per la presentazione del libro Terra in Vista, la scienza e la tecnologia raccontate alle ragazze e ai ragazzi di Mondadori. Con gli autori interviene l'illustratrice del libro Cristina Portolano, presenta Valentina De Poli, con la partecipazione di Federico Fanti, Università di Bologna, e Alessandro Marani. Questa era l'agenda degli appuntamenti della settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. Gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità, e Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie, chiamò un taxi e ci mise sulla moglie, e Giuda andò a morire nella notte, per il vino, per le donne, per le botte. Lo raccolse per la giacca Maddalena, che viveva alle baracche allo sfacelo, in mezzo a una comune di ubriaconi che credevano in un regno su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione, discorsi sulla strada e vita piena, ma Giuda amava più d'ogni sermone le urla dolci della Maddalena. Fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo alla galera, Gesù Cristo era scappato fra la gente, e Giuda disse di non sapere niente. Ma quando vide Maddalena in parlatorio, che stava male e aveva perso un dente, l'ispettore disse: è stato Gesù Cristo a portare tutto l'oppio dall'Oriente. E ritornò dal suo amore col bottino, 30 denari per 7 amari, grazie, un marsala, per poi vedere scritta doppia al botteghino l'insegna di una grande multisala. Diceva: Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente, con un cast del tutto eccezionale, c'è pure Dio, l'immenso, onnipotente. Il cinema è un buio di persone, i grandi divi sono stelle da ammirare, e nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare. Maddalena, io ti amo tanto, lui voleva il cielo e io voglio stare qua. Lo uccidessero, va bene, tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà, ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi. Sieni dolci per occhi stanchi, bocca rossa di caramella, questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo Dio li vide al sola voce, io ti fulmino, Giuda l'Iscariota, mio figlio sta morendo sulla croce per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore: Dio, non mi fai paura, tu che hai fatto un figlio senza far l'amore, che vuoi capirci di questa fregatura? Lascia stare Giuda e guarda altrove, ecco, guarda la mia scollatura, e io mi guarderò dalla tua invidia, perché Dio non gode come una creatura. Dio scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente curia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno al fiume a far l'amore su una barchetta che va controcorrente. E abbiamo appena ascoltato Mannarino con la sua personale interpretazione, diciamo, della storia d'amore tra Maddalena e Giuda. E appunto questa canzone Maddalena fa parte di Super Santos, il secondo album del cantatore Alessandro Mannarino, pubblicato nel 2011 dalla Live SRL, distribuito dalla Universal Music. E la puntata è ormai arrivata agli sgoccioli, come si suol dire, ma prima dei saluti finali vi volevo ricordare un altro evento che non si tiene qua a Bologna, ma bensì a Roma. Ma per caso, se qualcuno ci sta ascoltando da Roma, o se altrimenti qualcuno ha un viaggio a Roma, vi volevo appunto parlare di questa interessantissima mostra, e anche perché è l'ultimo mese, quindi è veramente un'occasione da non perdere. Sto parlando di Fumetti nei musei, la mostra all'Istituto Centrale per la Grafica in via della Stamperia 6, appunto a Roma, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. In mostra tavole, schizzi, bozzetti di storie ambientate in 51 musei italiani, un viaggio nelle collezioni più belle del mondo attraverso vignette e balloon. Dal 12 dicembre fino al 16 febbraio ad ingresso gratuito. Quindi se per caso avete appunto in programma un viaggetto a Roma oppure volete trovare una scusa per andare a visitare la nostra magnifica capitale, questo sicuramente è un motivo in più per andarci. Come dicevo, questa 13ª puntata di Fuji Comics è ormai giunta agli sgoccioli e quindi bisogna fare un po' i saluti finali. Io come sempre ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ringrazio tutti i miei amici al di là della cornetta, anzi al di là della radio più che della cornetta, che mi ascoltano, e mando un grosso bacio a tutti e a tutte. Vi auguro ovviamente un buon pranzo, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto sempre sulle nostre frequenze. Vi lascio al GR Iskra e alla lettura del Last Minute. Mi raccomando, buona giornata, noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre dalle 10:30 alle 12:30 sempre su Radio Città Fujiko e sempre con la vostra Rachele Copparoni. Ciao ciao ciao. Radio Città Fujiko 103.1 FM.